Corso basico di Kabbalah. Parte 1. File audio 5. I quattro comandamenti. Il comandamento degli occhi. Il comandamento della bocca o lingua. Il comandamento del cuore, il comandamento delle forze sessuali, la forza di Yesod. Questi sono i luoghi spirituali dell'osservazione. Non pensare che puoi trovarli negli occhi fisici, nella nostra lingua fisica, nelle parti fisiche del corpo, ma sono dentro, in accordo con il posto della bocca, il cuore e la lingua. Con la lingua parliamo, noi vediamo con i nostri occhi e con il nostro cuore sentiamo. Sono un simbolo di tutte le nostre azioni e gesta. Per esempio, con la bocca prendiamo il cibo e con la bocca possiamo parlare in preghiera al Creatore. O possiamo maledire con la stessa bocca. Possiamo parlare con parole calme o possiamo mentire. È lo stesso con gli occhi. Possiamo vedere la verità o la menzogna. Possiamo vedere la saggezza in esso. O no, c'è l'osservazione del positivo o del negativo, le cose che puoi fare o non sono autorizzate a fare o non sono autorizzate a fare, tutto ha una connessione con la nostra osservazione nel modo che noi osserviamo. La nostra osservazione è considerando il comandamento. E il terzo comandamento è il comandamento con il corpo, tiferet. È il comandamento con il cuore. Questo significa la nostra connessione con il Creatore per sentire, amare. Con il cuore fisico questo può essere sostituito. Con il patto tu puoi amare il tuo prossimo. O lo odi, segui i comandamenti e poi riceverai la tua interezza, la tua realizzazione. Non essere uno schiavo in qualunque situazione tu sei. Questi tre comandamenti. Gli occhi per vedere puro, saggezza, intuizione, la bocca lingua per parlare in modo puro e il comandamento del cuore per sentirsi puro. Questi tre comandamenti sono visti in molti insegnamenti in tutto il mondo, ma non il quarto, ma non il quarto comandamento. Solo io ti parlo del quarto comandamento. Questo è il comandamento di Yesod. Lo è nella nostra parte inferiore del corpo, dove trovi gli organi sessuali. È qui, in questa zona, c'è un'enorme fonte di energia. E con questa area il Creatore ha fatto anche un patto. Tutti noi abbiamo sentito parlare di circoncisione, ma questo non ha niente a che fare con il corpo fisico. Portalo nella tua memoria. Non parliamo del corpo fisico. Non si tratta di un pezzo di carne, ma è in relazione con la purezza più pura nella relazione con questa enorme fonte di energia. Il Creatore aveva fatto questi patti con Avramo. Le religioni parlano solo dei primi tre patti, ma per loro il quarto è tabù. Nessuno parla riguardo a questo comandamento. E anche in questo posto, in questo luogo segreto, questo posto ha bisogno, e non solo in necessità. Noi dobbiamo correggere anche questo posto. È il quarto comandamento di Yesod. E qui vediamo i limiti che sono proibiti, come per esempio non dormirai con tua madre, o è proibito dormire con un animale. E queste sono regole per tutta l'umanità. Non essere un struzzo, nessuno può sfuggire a questo comandamento. Questo corpo è dato a te, così ora puoi fare le tue correzioni. Correzioni che sono relative a questi quattro patti. Sei tu che devi finire questo lavoro. Il quarto comandamento ha in ogni cosa a che fare con tutti i peccati. Tutte le forze sono venute da questa area. Che cosa abbiamo qui, per esempio? Per esempio, incesto, abuso, stupro, adulterio. Loro sono tutti connessi con la sofferenza dell'uomo, come fisico e anche spirituale, tutto è intrecciato l'uno con l'altro. Devi adeguarti con loro perché tutto è intrecciato l'uno con l'altro. E quando dici che non è affar mio, allora la prossima generazione deve fare questo. Devi sapere, è nel programma del Creatore, che dovresti essere integro, perfetto, proprio come lui stesso, il creatore. Questa è la corrispondenza in qualità. Il creatore è integro, perfetto. Il tuo programma, la tua correzione, è lì per te per venire alla stessa interezza. Non puoi obbedire a tre patti e trascurare il quarto. È in ogni cosa o niente. Interezza è solo per essere visto nello spirituale, non sulla terra. Per esempio, nei Paesi Bassi vediamo il modello Polder. Questo significa un po' di questo e un po' di quello, ma non nello spirituale. Qui devi osservare tutti e quattro i patti, anche il comandamento di Yesod. Un uomo, una donna, ma perché? È abbastanza. Non hai bisogno di più perché devi venire in relazione con te stesso. Non parlo di abitudini ebraiche. Sto parlando delle leggi dell'universo considerando l'essere umano. Non parlo di questo mondo o di altre persone. Vuoi finire il tuo lavoro, quindi devi seguire anche il comandamento di Yesod. Non importa cosa tu sei, un uomo o una donna, il punto è che devi lavorare su te stesso. Nel momento in cui al tuo corpo fisico manca la tua anima e torna alla sorgente, ci sarà solo una domanda alla tua anima. E questa domanda non riguarda ciò che hai fatto nel mondo materiale. Se sei stato un buon guerriero o marito, eccetera. No, la domanda sarà: hai lavorato a te stesso? Che cosa hai fatto con l'anima che io avevo dato a te? Cerca di capire questo molto bene. Tutta l'immaginazione appartiene al comportamento dell'animale inferiore. È difficile da capire. Certamente è bello essere sposati, avere figli, è anche parte del nostro essere. È anche parte del nostro essere. Ma non trascurare mai il lavoro al tuo interno. E quindi tu sei qui. La Kabbalah ti insegna come lavorare su te stesso. Cosa significa questo? Fare le cose bene con la forza di Yesod. Ad esempio, tu devi realizzare il desiderio aumenterai. Cosa significa? Dai ad una nuova anima la possibilità di venire in questo mondo. Quindi ora Egli può fare anche le sue correzioni. Ma per te, personalmente, riguarda la forza dentro di te, le leggi dell'universo, lo spirituale. Diventa consapevole che c'è una grande intrecciatura tra ciò che fai dal tuo interiore, ripeto, interiore, e come agisci dall'esterno. Lavora a te stesso. Significa lavorare all'eterna saggezza, intendendo le leggi dell'universo date a noi dal Creatore, e dobbiamo vivere in accordo con queste leggi. O in altre parole, lavora e vivi secondo questi quattro patti. Non solo con il comandamento degli occhi, con la tua testa. Se lo fai, tu vedi solo una parte della realtà. Quando lavori e vivi in conformità al primo e secondo comandamento, vedrai la realtà più intensa. E quando tu fai uso del terzo comandamento, inoltre, vedrai la realtà con occhi nuovi, diversi, più spirituali. E quando tu colleghi l'ultimo comandamento, il comandamento di aumentare, allora diventi consapevole della vera realtà. Allora vedrai in verità la vera realtà. Allora hai finito la tua schiavitù e nessuno ti può più afferrare. Hai il controllo sulla tua stessa vita. Il destino è ora nelle tue mani. Questi sono i quattro patti che il Creatore aveva fatto con ogni essere, fino alla fine dei tempi. La religione ti dice solo dei primi tre, ma con il quarto tu raggiungerai il totale, l'intero. Le 10 Sfirot, le 10 emanazioni, 10 sapori, e questi 10 sapori hanno ognuno a che fare con la realtà, con i quattro patti bisogna obbedire. Quando vivi in accordo con questi quattro patti, allora in ogni situazione il risultato sarà il massimo. E allora puoi sperimentare i 10 sapori, 10 sapori spirituali. Questo è il momento di azione, di esperienza. La parola sfera è singolare, e sfirot è plurale, significa gemma. Pensa a uno saffiro. Sfera è radiazione, emanazione, significa luce, diffusione, splendente. 10 sapori riguarda tutto tutto l'essere interiore. Dall'esterno non c'è nulla. Solo questi 10 Sfirot esistono. Niente di più. Non ci sono altri punti di forza dopo queste collezioni di forze. Il pronunciare questi 10 nomi già dà forza. Se vivi accordandoti ai 4 comandamenti, allora ogni cosa è reale. Più combini i 4 comandamenti l'uno con l'altro, più ti connetti ai 4 comandamenti, più forza riceverai. Riceverai molta forza di volontà vivendo in accordo con questi comandamenti. Questa è la forza di vivere. Cos'è spirituale? Quando connetto questi 4 luoghi l'uno con l'altro, allora ho una relazione con il Creatore. Poiché non ho la forza di vivere in accordo a questi 4 luoghi, io sono ancora un bambino. Essere un adulto significa vivere in conformità a questi 4 patti. Questi 4 luoghi sono estremamente importanti. La Kabbalah è il linguaggio del sentimento. È un linguaggio interiore. Informazioni della Kabbalah e parla di concetti. La maggior parte è scritta nel linguaggio ebraico. Vedi questo linguaggio come un codice. Un codice, un linguaggio dello spirituale, dato a Mosè. Il linguaggio ebraico è un codice cabalistico, riflesso nelle lettere. L'intera struttura dell'universo è nascosta in questa lingua. Pertanto è molto importante imparare le lettere ebraiche. Nel linguaggio, questo linguaggio. Pertanto è molto importante imparare le lettere ebraiche. Per cominciare, nel linguaggio ebraico vediamo il nome del Creatore. Yud. Hei, Vav, Hei. Leggendo da destra alla sinistra. Vedi? Yud, Hei, Vav, Hei. Quando la tua intenzione è pura e vivi secondo i 4 comandamenti, tu riceverai la forza del Mashiach in ebraico. La forza del Salvatore, arriverà non appena ognuno di noi è corretto. Il tempo è maturo. Le nostre anime sono pronte a parlarne. I tempi sono maturi per vedere secondo questi 4 comandamenti, per imparare le 10 Sfirot. E quando usi anche il nome del Creatore, allora ognuno di voi verrà all'esperienza, perché nascosto in questi strumenti c'è una forza. Ognuno di voi sentirà il risultato. Ma poiché da tanto tempo non pronunci il nome del Creatore, non vivere secondo questi quattro comandamenti, non c'è relazione con il Creatore. Il Creatore non può sentirti. Ogni cosa deve essere in accordo, in qualità. Non pensare, ok, seguo il primo dei tre comandamenti e l'ultimo lo dimentico. Poi non c'è nessuna relazione con il Creatore. Nella Kabbalah stiamo parlando solo di cose che durano per sempre. È impossibile giocare con tutto, nessuno può rifiutare la sua correzione. Se tu abbandoni, poi la prossima generazione sentirà il dolore. E anche la tua anima nella prossima generazione sentirà il dolore in un'altra incarnazione. Finché vuoi solo il piacere e trascurare il quarto comandamento, la tua intenzione è avere divertimento, piacere. Usi il quarto comandamento in un modo sbagliato. Guarda, io non condanno nessuno. Certamente è il tuo business, ma devi sapere cosa fai con esso. Sta a te. Se scegli di vivere secondo l'essere esterno, così sia. L'essere interiore non ne fa alcun danno. Il solo risultato è che stai rallentando il tuo processo. Rallenti le tue correzioni. Per quanto a lungo vivrai secondo il tuo essere esterno, e tu preghi e chiedi al Creatore, sappi che Egli non ti sente. C'è una legge universale. Dall'alto riceviamo solo il bene. Tutto ciò che riceviamo da sopra è solo per la correzione. Se ti succede qualcosa, ti succede perché così ora puoi correggere. Quando odi qualcuno, non vivi secondo i quattro comandamenti. Quando hai pensieri cattivi, come puoi sentirti il Creatore? Il tuo cuore può essere aperto, ma finché tu non vivi secondo questi quattro comandamenti, tu non riceverai una risposta dall'alto. Può essere più tardi nel tempo. Tutto ciò che riceviamo è dal Creatore. Lui ci dà a noi per correggere. E questo è molto difficile. Il tuo intelletto resiste. Il tuo intelletto non può capire questo, ma tu devi sapere. Se stai ancora vivendo e ascoltando il tuo senso ragionevole, non verrai alla realizzazione, non raggiungerai mai la tua destinazione. In un modo lento verrai alla comprensione. Passo dopo passo vivrai per raggiungere il tuo obiettivo. Vivrai secondo i quattro comandamenti. Perché è nell'istruzione di sopra? Questo è come è perché sei fatto. Nessuno deve soffrire. Uno ha bisogno di amore per addolcire la sofferenza. Ma solo il Creatore addolcisce il tuo dolore. Questi quattro comandamenti addolciscono il tuo dolore. Non c'è bisogno di altre parole. Puoi dire una preghiera senza parole, e il Creatore ti ascolta. Il comandamento con gli occhi è connesso con Chokhmah, con saggezza. Quando guardi qualcuno negli occhi, tu vedi la sua saggezza. La saggezza brilla dall'interno all'esterno. Cosa intendiamo con vivere in accordo con gli occhi? A tutti a che fare con come noi vediamo questo mondo. E ciò che stiamo vedendo positivo sono i miei pensieri ancora puri. Se tu non lo fai, non giustificano la guida del Creatore. Qualunque cosa succede a te o nel mondo, succede perché viene da sopra. Non criticare perché tutte le critiche che hai riguarda il Creatore. Lui è la sorgente della nostra vita. Lui è il bene, da dove viene tutto l'aiuto. Il comandamento degli occhi ti dice che ogni cosa che fai deve essere buono dall'interno. Sempre e ricorda, giustifica sempre il governo del Creatore. Qualunque cosa accada è la sua correzione. Dal profondo del tuo essere interiore, che devi dire anche questo è buono, anche quando a te manca la comprensione, chiedi per la comprensione. L'essere esterno vive secondo i suoi cinque sensi. Ma l'essere interiore deve sentire gioia. Anche quando questo non riesci a comprenderlo, chiedi al Creatore per comprenderlo. Lui sa cos'è buono per te. Il lavoro spirituale va sempre dal basso verso l'alto. Nelle lezioni discuteremo la correzione dell'anima dal basso verso l'alto. O in altre parole, dai nostri desideri inferiori ai nostri desideri più alti. Più correggi, più vicino vieni al Creatore. E tutto questo succede nel tuo interiore. Quello che stiamo facendo qui è lavorare a noi stessi. E attraverso questo lavoro facciamo in modo invisibile le connessioni con gli altri. Vediamo questo come un ragno che tesse la sua rete. Minacce indivisibili vengono intessute da uno all'altro. La via della correzione è da Malchut a Yesod e più su. Lentamente noi veniamo alle osservazioni del Keter nel Malchut. Quindi noi abbiamo in una sfera i 10 gusti completi. Tutti i 10 gusti devono essere corretti prima di venire nel Yesod. Quindi di nuovo iniziamo con il Malchut di Yesod. Finché non abbiamo corretto tutti i 10 sapori di Yesod, allora siamo pronti a fare il lavoro in Hod, sempre più in alto fino a che avrai tutti i 10 gusti. E abbiamo bisogno dei 4 comandamenti in questo lavoro. Quello che stiamo andando a fare è risalire dalla fase dell'animale inferiore al superiore, il Keter. Nella seconda parte delle lezioni discuteremo la Kabbalah. La Kabbalah ci dà la via da sopra a sotto. C'erano grandi uomini saggi che si erano elevati così in alto. Loro ci hanno detto della loro osservazione e sono stati in grado di farlo perché essi avevano raggiunto un livello molto alto di consapevolezza. Essi possono raccontarci la via da sopra a sotto. Perché? Ognuno di noi deve percorrere la via verso l'alto nel suo personale viaggio. Hanno raccontato a noi come è la via dall'alto al basso. Quindi ora conosciamo la strada, non è vero? L'uomo ha un solo nemico. Questo è il suo proprio desiderio non corretto. Se stai ancora pensando di avere un altro nemico, non sei pronto. I tuoi peggiori nemici sono i tuoi desideri non corretti. Quando trascuriamo questi 4 comandamenti, allora hai la sensazione di ostilità. Quando hai corretto te stesso, lo saprai. Sperimenti che ogni cosa è buona. Vedi e assapora come è buono il Creatore. È un detto dei cabalisti. Cosa devo fare? Vai con la tua fede al di là della tua comprensione, del tuo intelletto. Questo è quello che hai bisogno. È il desiderio del Creatore che parliamo con Lui. Se non siamo corretti con il tempo, avremo dubbi. Quando ti alzerai alla tua scala personale, il dubbio cambierà. Anche quando tu non capisci, credi oltre la tua comprensione, oltre il tuo intelletto. È il desiderio del Creatore che ogni persona, in un modo individuale, viene a Lui. Non con la via dello spirito di massa, non come un gruppo o come un membro di qualsiasi religione. No, ognuno di noi deve venire in contatto con lui in una via esclusiva e personale. Perciò la Kabbalah non è un movimento. Tutto ciò che è connesso con un movimento di tendenza, devi provare a vederlo dall'interno. Qualunque cosa tu vedi, guarda dall'interno. Ogni anima che appartiene allo spirito di gruppo è ad un certo livello e ha bisogno di un gruppo, di un movimento, ma la Kabbalah è per loro che sono pronti per la via più personale, individuale, quella che conduce al Creatore. Egli deve fare i propri sforzi perché solo attraverso i propri sforzi egli può purificare se stesso. L'intenzione deve essere nel tuo cuore. Chiedi dall'interno del tuo cuore di essere purificato. Chiedi per la purificazione di tutti i tuoi pensieri cattivi. Quello che può essere purificato, così puoi vivere in accordo ai quattro comandamenti. È il desiderio del Creatore stesso di essere in relazione con lui. Ci sono due partecipanti, tu e il Creatore. È il Creatore e io, nulla di più. Solo quando abbiamo riunito le 10 Sfirot, vedremo il Creatore. Costruendo la tua forza con il lavoro su te stesso, vivendo secondo questi quattro comandamenti, il Creatore verrà. Dobbiamo svegliare i 10 punti di forza, e questo è possibile solo lavorando a noi stessi. Quali sono i segreti della Kabbalah? I segreti della Torah, che quello che non capisci, non lo hai ancora sperimentato, questo è un segreto. Questo è per te un segreto. Quando senti che le tue parole non possono esprimere ciò che senti, questo è un segreto, segreto per te. La Torah sta solamente parlando di una anima, di una anima. Tutto è spirituale. Tutte le nazioni di cui parla la Torah sono solo i miei desideri. Loro sono dentro di me. La Torah ci racconta solo di fondamenti. Per esempio, i desideri di Israele sono i desideri corretti in me. Nessuna parola sul nostro mondo. La tua anima è una parte di Israele. È la parte di tutte le nazioni e anche nella tua anima. Nella seconda parte della lezione discuteremo e studieremo la scala spirituale dal alto al basso. Sono i cabalisti che hanno raggiunto il gradino più alto e ci hanno detto come è la strada da sopra a sotto, la via di basso, dal basso verso l'alto, è una via personale. Che cosa stiamo imparando da questi cabalisti e la strada da sopra a sotto? Ma devo andare in modo personale. La via dal basso all'alto. Uno sa tutto di questo mondo, ma nulla circa lo spirituale. In questo siamo come i bambini. Proprio come i bambini stiamo imparando ciò che possiamo fare o non fare. Solo quando uno ha completato le correzioni, poi lui riceverà il più alto, questa è l'area in cui non ci sono parole, dove non c'è comprensione. Per descrivere questo mondo uso i miei cinque sensi. Ma più in alto arriviamo, meno noi possiamo fare una descrizione. In un certo modo è indescrivibile. È vietato parlare circa questo livello. Ogni cosa va da studente a maestro, da un accordo in qualità. Ogni generazione ha il suo uomo saggio che può parlarci riguardo lo spirituale. Stiamo solo imparando la strada da sopra a sotto. Questo può essere detto. Ogni ebreo ha l'obbligo di imparare questo. Uno che non è ebreo ha il diritto di imparare questo. Hai bisogno dell'interesse, del desiderio del creatore. Quando leggi qualcosa circa la Kabbalah, stai leggendo qualcosa sulla vera spiritualità. In spiritualità non c'è discriminazione, è aperto per ognuno. Così ora egli può venire alla consapevolezza. Tu puoi solo sperimentare attraverso l'essere interiore. L'esterno non ha importanza. La Kabbalah ci insegna la scala spirituale che va dall'alto al basso. Ora conosci la via del ritorno? È questa strada. Ognuno di noi deve andare in questa via nel suo viaggio personale. La purificazione interiore ci conduce dal basso verso l'alto. Ma è un lavoro personale. Solo tu puoi fare questo. Tu tutto ciò che ha una connessione con l'esterno, devi limitarlo, altrimenti c'è un ostacolo per il tuo sviluppo spirituale. Resta chi sei. Nota tutte le cose esteriori non sono proibite, ma non devi passare tanto tempo con esse. C'è solo una regola: essere vero verso te stesso. E tutto ciò che è al di fuori di te non ti appartiene. Lascia crescere dall'interno l'interezza. Come? Facendoti piccolo per l'alto. E non solo per l'alto, anche per chi vive accanto a te. Quando ti fai piccolo in ogni situazione, sei tu che vincerai. In questo modo ottieni le giuste informazioni a te stesso. Più basso sei dall'interno, di più ricevi. Non vedere questo come farsi inferiore, più piccoli come umiltà, ma come un intenso desiderio, il massimo desiderio per il ricevere. Questa umiltà. Il creatore gode di colui che desidera al massimo. Lui vede il tuo desiderio di lavorare su te stesso. Attraverso questo è naturalmente vivere secondo i quattro comandamenti, possiamo ottenere qualunque cosa. In entrambi i sensi del parola, i miracoli accadranno a lungo. Tu non puoi giocare a un gioco perché se lo fai. Perché se lo fai, il percorso sarà un percorso lungo e doloroso. Attraverso l'umiltà. E i quattro comandamenti tu puoi rendere il percorso più breve. Questo è ciò che stiamo imparando nella Kabbalah, la strada corta. Ho scritto un manuale e questo manuale è per te, come guida per risalita. Leggi ogni frase con l'uso dei tuoi quattro comandamenti e con il massimo desiderio per venire alla comprensione. Il Creatore dice: quando trascuri me, un giorno io trascurerò te per 2 giorni. Pensa al Creatore ogni giorno, anche per un secondo. Questo è abbastanza per te. Così ora tu non puoi ricadere nel tuo stato di incoscienza. Lo spirituale è molto sottile. Il tempo scorre via. Sii consapevole di questo. Pertanto il mondo esterno è molto cruciale. Quando sei in altre circostanze senza la Kabbalah, ti trascinerà. E abbiamo detto sopra, quando tu trascuri il Creatore, per un giorno, egli ti trascurerà per 2 giorni. Questo è uno studio molto serio. sii consapevole del tuo ambiente. Hai una libera scelta. Tu puoi scegliere il tuo ambiente. Sei libero di scegliere il tuo ambiente. In questo tu devi essere molto forte. Resta fedele al tuo interiore. Cerca l'ambiente che è in accordo con le tue qualità. Solo allora puoi stare fedele ai quattro comandamenti. Sei tu che devi migliorare te stesso. Solo allora potrai gustare tutti gli strati della tua personalità. E questo è meraviglioso. Ora non sei a lungo occupato con lo spirito di massa, ma con il tuo personale, individuale viaggio. Non lottare per la solitudine, ma apri il tuo cuore per le persone che sono proprio come te, cercando il Creatore, che hanno anche un obiettivo. Sei tu che devi creare un puro ambiente. Mai è veramente intendo mai dare in affitto la tua anima a loro che sono cinici.